Sì, allora noi come studenti siamo in presidio da più di una settimana permanente in rettorato con le nostre tende, come l'avevamo subito detto, rispondendo alla chiamata che si è alzata dalla Sapienza, prendendo l'esempio dei portuali di Genova e dei lavoratori dell'Unione Sindacale di Base, abbiamo presidiato per più di una settimana il nostro rettorato, pronti a bloccare tutto al momento della necessità. Oggi quel giorno è arrivato e per questo abbiamo bloccato l'Università di Bologna, bloccando tutta via Zamboni, bloccando l'entrata del rettorato, bloccando il plesso di matematica, picchettando ovunque, da Berti Piscià a economia, a giurisprudenza. Oggi gli studenti non entrano a lezione e andremo a confluire poi nella manifestazione cittadina indetta dall'Unione Sindacale di Base in Piazza Maggiore. Questa giornata per noi è particolarmente importante anche perché domani ci sarà il Senato accademico, nel quale noi porteremo una mozione che chiederà la rescissione degli accordi con Israele, le università israeliane, le aziende israeliane e l'industria bellica. Quindi se oggi blocchiamo tutto è perché anche domani vogliamo imporre la rottura totale della nostra università con Israele e il sionismo. Ecco, qualche mese fa l'università, dopo le lotte che avete portato avanti, ha approvato un documento in cui parlava di plausibile genocidio e si impegnava a interrompere le collaborazioni. Avete notizie su quanto fatto fino adesso? Quelle dell'Università di Bologna sono state solo tante belle parole, perché gli accordi, le miriade di accordi sia con le università israeliane come con l'industria bellica e le aziende israeliane, parlo di Technion, parlo di Leonardo, parlo di Thales Alenia Space, continuano a essere attivi indisturbati. Per questo noi domani abbiamo una richiesta molto semplice: la mozione degli studenti per il boicottaggio è passata anche al Consiglio degli Studenti. Questo vuol dire che l'organo centrale della rappresentanza studentesca ha deciso che devono essere interrotti subito tutti gli accordi e l'Università di Bologna deve passare dalle parole ai fatti. Perché se siamo contenti delle dichiarazioni anche di solidarietà dell'Università di Bologna, la flottiglia, gli impegni a parole per condannare il genocidio, il plausibile genocidio, quello che vediamo è che però nella sostanza ancora si intrattengono rapporti con Israele e con l'industria bellica. Per questo domani sarà il momento per l'Università di Bologna di prendere una parte e di rispondere alla volontà studentesca. Oggi abbiamo bloccato le lezioni, abbiamo bloccato le entrate proprio per questo, perché la nostra università è un'università complice e domani dovrà rendere conto agli studenti di quello che gli studenti hanno già deciso, ovvero la rottura totale con Israele e il sionismo.